America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24 da Gerusalemme, Mario Platero. This trip allows me to do, I think, is to once again have a chance to connect with the Israeli people. Il presidente Barack Obama è appena arrivato circa un'oretta fa all'aeroporto internazionale Ben Gurion di Tel Aviv con il suo Air Force One. Si è trasferito a Gerusalemme con il suo Marine One, l'elicottero presidenziale. Beh, vorrei aprire una parentesi e ricordarvi che questi viaggi presidenziali sono una vera e propria operazione militare, nel senso che il presidente degli Stati Uniti viaggia non solo col suo aereo, ma con i suoi elicotteri, con le sue macchine, addirittura con il suo podio, i suoi microfoni, e quindi ci sono dei cargo militari che trasportano tutto questo apparato e che addirittura, pensate, per esempio, quando c'è l'automobile del presidente che lo lascia sulla scaletta dell'aereo, ce n'è già un'altra in volo per la prossima destinazione, di modo che quando il presidente arriva ci sarà la macchina. Quindi è tutto doppio, ci sono due elicotteri, due macchine, doppi microfoni, e ci sono circa 600 persone che viaggiano al seguito del presidente americano. Ecco, in questo contesto Barack Obama è arrivato un'oretta fa al King David Hotel di Gerusalemme, un albergo storico dove si sono scritte le più importanti pagine di storia medio orientale, e fra poco partirà, fra un'oretta circa, per andare alla residenza di Shimon Peres, il presidente israeliano. Nel pomeriggio, più tardi, intorno alle 7 ora italiana, ci sarà la conferenza stampa congiunta con Benjamin Netanyahu dopo l'incontro fra i due. Ecco, la parte politica naturalmente è molto importante, perché sappiamo che Netanyahu e Barack Obama hanno avuto momenti di altissima tensione, ma sanno che devono lavorare insieme. E Barack Obama arriva in Israele per studiare varie coordinate che riguardano gli equilibri medio orientali, questa polveriera che potrebbe esplodere malamente da un momento all'altro, perché si parlerà di Siria naturalmente, si parlerà di Iran e si parlerà di rapporti con la Giordania, con l'Egitto e con le primavere arabe in genere. America 24. La giornata di domani di Barack Obama sarà dedicata, per la maggior parte alla Palestina. Ci sarà una tappa a Ramallah, un incontro con Abu Mazen, e dunque il tentativo di trovare dei punti di contatto per riprendere il dialogo con Israele. E la questione è molto importante sul tavolo, è la questione dei due stati, perché così come vanno le cose, lo Stato palestinese, nonostante sia stato proclamato alle Nazioni Unite, rischia di non materializzarsi mai. E proprio ieri Mustafa Barghouti, leader del Consiglio palestinese, ha detto di augurarsi che questa tappa di Obama a Ramallah possa così sbloccare la situazione e riproporre l'idea che presto ci possano essere due stati. Questo, devo dire, è anche nell'interesse di Israele. Ma direi di tutto questo parliamo adesso con Paolo Valentino, con noi ai microfoni di America 24, che conosce a fondo la regione. Abbiamo viaggiato insieme con Barack Obama quando ci fu lo storico discorso all'Università del Cairo. Ieri abbiamo brevemente discusso di queste tematiche, ma riprendiamole oggi. Buongiorno Paolo. Buongiorno Mario. Allora Paolo, c'è un contesto geopolitico, ne abbiamo parlato brevemente ieri e così mi fa piacere sentirti, visto che tu hai seguito il presidente Barack Obama in molti dei suoi viaggi internazionali, ma soprattutto nel viaggio che Obama fece al Cairo, un viaggio che è ormai è storico, perché molti dicono che fu da quel discorso che poi si gettarono i semi per le primavere arabe. Ecco, arrivando in Israele c'è un contesto strategico, c'è la parte economica, c'è il fatto che l'oro nero non gioca più un elemento così chiave, quantomeno nel medio periodo, per l'economia americana. Lo gioca molto di più per la Cina, lo gioca molto di più per l'India. Ecco, secondo te può emergere una nuova linea politica degli Stati Uniti in questo viaggio, oppure sarà, come si dice, more of the same, un po' la stessa cosa? Francamente non credo, perché la prospettiva dell'autonomia energetica degli Stati Uniti sicuramente dà una maggiore libertà di manovra agli Stati Uniti nel più grande teatro medio orientale, ma questo paradossalmente non cambia nessuno dei dati di fondo del conflitto israelo-palestinese, dove la situazione resta sostanzialmente vulcanizzata, anzi è peggiorata, e dove la stessa amministrazione americana non ha nessun interesse ad alimentare alcuna aspettativa. Quello che è vero però è che il viaggio in Israele, il primo di Obama, nello Stato ebraico, può servire a svelenire il clima, a ricostruire un rapporto che, come abbiamo visto in questi anni, è stato abbastanza slabbrato, è stato abbastanza negativo con Benjamin Netanyahu, e in questo senso può creare appunto un clima più favorevole alle iniziative del nuovo segretario di Stato John Kerry, che, come sappiamo, è molto molto deciso a essere più attivo sul teatro medio orientale. Ecco Paolo, non c'è soltanto Israele, non c'è soltanto Palestina, c'è anche la Giordania. Il re di Giordania, Abdullah, ha fatto un'intervista molto interessante con Atlantic Magazine, un'intervista, devo dire, a tutto campo, in cui di fatto dà dei messaggi molto chiari. Attacca la Siria, dice che il leader siriano Assad addirittura non sa neanche che cos'è il jet lag, per dimostrare quanto sia provinciale. Attacca l'Egitto, la leadership egiziana, dice che la fratellanza islamica è una specie di setta massonica, e parlando con Goldberg, che ha fatto l'intervista, come dire, bacchetta anche i suoi parenti, i suoi cugini e persino i suoi figli, dice: qui non ci sono più privilegi reali, ormai dobbiamo passare al mondo reale. Ecco, come vedi la tappa giordana? Ma sicuramente queste uscite del re Giordano sono uscite, diciamo, preventive e mirano a prevenire ogni eventuale esplosione interna dalla quale finora la Giordania è stata risparmiata. Sicuramente sono delle dichiarazioni tese a favorire un atteggiamento positivo da parte degli Stati Uniti, e quindi la Giordania si pone come interlocutore degli Stati Uniti e come uno Stato che garantisce agli Stati Uniti una serie di cose. Credo che il re di Giordania Abdallah ne abbia disperatamente bisogno, perché in questo momento è a capo di uno Stato fragilissimo, e per le spinte interne ovviamente, ma anche per i fragili equilibri demografici che la Giordania soffre ovviamente. Per esempio la massa di rifugiati siriani che premono ai confini, la presenza palestinese. Per cui è chiaro che Abdallah in questo momento ha tutto l'interesse ad avere delle posizioni di aperture, a favorire un'evoluzione che possa, diciamo, neutralizzare in anticipo ogni eventuale esplosione dalla quale finora il suo Stato è stato risparmiato. E Paolo, in Giordania Barack Obama sabato mattina andrà a visitare Petra, le storiche rovine che sono in Giordania. E Tom Friedman, polemico come sempre, il grande columnist del New York Times, ha detto che Barack Obama sarà un turista. Ecco, come finirà questo viaggio di Barack Obama? Come il viaggio di un turista? Credo che sarà esattamente questo, ma ciò non significa che i viaggi di un turista non possono essere produttivi. Vediamola più positivamente: quello di Barack Obama sarà l'esperienza di un viaggiatore, che gli permetterà di conoscere meglio la regione e quindi di agire con più saggezza e con più efficacia in futuro. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee per questa costa atlantica che vive sì tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguitemi su Twitter, @MarioPlatero, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno. Vi parlo da Gerusalemme, vi parlo da un contesto in cui ci sono molte speranze e molte difficoltà. Mi sembra appropriato proporvi una straordinaria canzone di Leonard Cohen, Alleluia. She tied you to a kitchen chair, she broke your throne and she cut your hair, and from your lips she drew the Alleluia. Mario Pratero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!